Rosciani e Meazza, buongiorno. Sono un ascoltatore di valore planetario e adesso più che mai in questo periodo nelle mie vene scorre più Radio 24 che sangue. Bravi, buon lavoro e buona giornata da Stefano. Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Una alla volta, una alla volta, una alla volta, per carità. Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là. Non avrei potuto avere un'idea migliore per iniziare la trasmissione di oggi. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, oggi in conduzione solitaria per quello che riguarda Due di Denari. Ma Mauro, non è che non ci sia perché è andato dal barbiere a sistemare anche lui il capello dopo queste settimane di quarantena che hanno obbligato tutti a trascurare la nostra capigliatura. Iniziamo così, salutando Mauro che oggi non c'è, perché abbiamo trovato questa notizia molto divertente che per la verità non è che ci colpisce più di tanto. Allora, sentite un po', adesso abbiamo anche un nuovo fenomeno da raccontare. Qualcuno l'ha chiamata Revenge Beauty. È proprio la vendetta della bellezza, la corsa a recuperare i trattamenti di bellezza che non è stato possibile fare durante la quarantena e i mesi chiusi a casa, o quantomeno così l'ha battezzata questo sito europeo dedicato al mondo beauty e wellness. Si chiama UALA, UALA, ma io ve la dico all'italiana, che ha analizzato il traffico e tutte le prenotazioni nei primi giorni dopo la fine del lockdown e ha registrato prenotazioni da capogiro con un aumento a tre cifre. Ma insomma, voi tutti che siete sui social, ci sono anch'io, avrete fatto caso a come tutti i nostri amici stiano facendo la gara a mostrarsi dal barbiere o dal parrucchiere, quindi a mostrarsi un po' rimessi a nuovo dopo queste settimane che sicuramente anche da questo punto di vista sono state un po' un sacrificio. E allora vi racconto altre particolarità. Gli appuntamenti confermati: lunedì 18 maggio, primo giorno di apertura rispetto ad un lunedì medio prima del coronavirus, segnano un aumento del 146%, sempre a tre cifre. È l'aumento delle ricerche fatte dagli utenti sul sito e sulle app di categoria alla ricerca dei saloni di bellezza dove trovare una disponibilità per prendere chiaramente un appuntamento, più 167% l'ammontare appunto della crescita delle ricerche. La permanenza media delle donne dal parrucchiere è stata di 2 ore e mezza, beh, la media diciamo che ci tocca sostenere quando ci andiamo normalmente, e di 1 ora e mezza dall'estetista. Se la sono cavata più velocemente gli uomini, che hanno trascorso in compagnia del barbiere di Figaro appena 45 minuti. Insomma, molto interessante tutto questo nuovo spaccato che sta emergendo dalla situazione di ripresa, di allentamento del lockdown. Ah beh, mi sono scordato un'informazione importante. Quanto si sta spendendo? Stiamo notando dal parrucchiere o dall'estetista o dal barbiere quello che sta succedendo al bar. Stanno aumentando i prezzi, lo sappiamo e in parte lo comprendiamo anche, perché insomma queste professionalità hanno dovuto sospendere la loro attività per tante settimane con un grave danno ovviamente per il loro business. E allora, dopo la quarantena e al primo arrivo nel salone di bellezza, le donne hanno speso in media 32 euro dall'estetista, chissà che piccolo trattamento hanno fatto, perché ci risulta che generalmente costi tutto un po' di più, 67 euro dal parrucchiere, chiaramente sono dati medi. Invariato invece sarebbe lo scontrino medio degli uomini, che hanno investito circa 30 euro per la loro bellezza. Non è però di questo che parleremo questa mattina, parleremo sì in qualche maniera un po' di restyling, ma in prospettiva del restyling a cui saranno sottoposte le nostre case, le abitazioni nelle quali viviamo, gli edifici nei quali viviamo, perché ci sarà questo super bonus del 110% pronto ad arrivare e per il quale ogni giorno apprendiamo qualche dettaglio in più e che ha scatenato letteralmente tutti voi ascoltatori, perché da quando abbiamo avuto le anticipazioni che sarebbe arrivato questo super sconto fiscale per lavori importanti in casa, nell'edificio, nel condominio, vi siete subito scatenati per l'appunto nella caccia alle informazioni. E siccome ci avete travolto di domande, noi questa mattina le abbiamo messe tutte insieme e le gireremo ai nostri ospiti, con i quali ci faremo chiarire tutte le idee rispetto a questa importantissima novità in arrivo, destinata sicuramente a dare un'altra bella come dire, iniziativa di energia al settore dell'edilizia, che è stato molto aiutato per la verità da molti bonus negli ultimi anni, ma in questo momento è un altro comparto che è destinato ad essere tra i destinatari, ad essere appunto trainanti della ripresa economica, visto che siamo in una difficoltà epocale. Allora stamattina ci aiuteranno il solito Cristiano Dell'Oste, del Sole 24 Ore, che non può mai mancare ad un appuntamento con queste tematiche, e poi per il profilo tecnico lo affiancherà Marco Zandonà, direttore dell'area fiscale dell'ANCE, che è l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Allora, io ho già una marea di domande che ci sono arrivate da parte vostra e che ho messo in scaletta, pronte ad essere girate ai nostri esperti, ma naturalmente potrete anche aiutarmi questa mattina all'800 24 00 24, e chiaramente ci farà piacere anche ricevere le vostre domande, i vostri quesiti, intervenendo in diretta al nostro numero verde. Detto tutto questo, fate tutte le necessarie premesse per il programma di questa mattina. Siamo pronti con il giornale radio del risparmio. Drin drin, edicola risparmio. E allora, la prima notizia è, come dire, necessaria se non altro per coerenza, visto che per 4 giorni vi abbiamo tormentato l'esistenza con l'andamento della BTP Italia, dell'emissione, della raccolta degli ordini del BTP Italia. Abbiamo fatto un punto della situazione quotidiano con Pietro Poletto di Borsa Italiana. Oggi abbiamo il bilancio definitivo, che per la verità appare su tutti i giornali, ma vale la pena valorizzarlo perché secondo me questa emissione record del BTP Italia, 16ª edizione, ha raccolto 22,27 miliardi di euro tra quello che hanno chiesto i piccoli risparmiatori e quello che hanno chiesto gli investitori istituzionali. Secondo noi è comunque anche un buon segnale per la ripartenza di questo paese. Insomma, i risparmiatori italiani hanno deciso di sostenere in questo momento lo Stato a caccia di risorse per fronteggiare l'emergenza economica, e poi soprattutto abbiamo capito che in qualche maniera un po' di risparmio in circolazione c'è, forse era anche male impiegato, era troppo sui conti correnti, anche se stamattina il Sole 24 Ore racconta ancora di depositi boom sui conti correnti degli italiani, ma comunque un po' di questa liquidità è stata smontata e dirottata verso questa emissione. Gli investitori istituzionali hanno rastrellato, hanno chiesto, ieri ce l'aveva raccontato Pietro Poletto, più di 12 miliardi, poi alla fine si è andati al riparto e quindi sono stati assegnati titoli per 8,3 miliardi di euro. E invece ricorderete appunto che nelle giornate precedenti ai piccoli risparmiatori sono andati circa 14 miliardi di euro. Allora, altra buona notizia riguarda invece il completamento da parte dell'INPS delle operazioni di pagamento della seconda rata, quella corrispondente al mese di aprile, delle indennità di 600 euro a favore dei lavoratori autonomi. E allora, fra tutti i problemi, fra tutte le difficoltà che ci sono state per accedere a tutta la gamma delle provvidenze erogate, garantite e decretate appunto dallo Stato in questi mesi, sappiamo per esempio quant'è difficoltoso l'accesso al canale bancario per chiedere i famosi prestiti, per prendere un po' di liquidità per rimandare avanti le aziende. Ebbene, questo invece è uno degli aspetti che ha meglio funzionato, a quanto pare, a parte il famoso data breach del 1° aprile, quando tutta l'operazione è partita. Poi tutto sommato il tutto è andato abbastanza bene. Allora, l'INPS ci ha raccontato che nella giornata di ieri erano già stati accreditati 1.400.000 pagamenti sui conti correnti e sulle carte di IBAN e dei beneficiari, e altri 400.000 pagamenti saranno eseguiti appunto nella giornata di oggi. Gli ulteriori 2 milioni di pagamenti saranno accreditati lunedì 25 maggio. C'è però un'altra, c'è una categoria di professionisti che si sta molto lamentando, e sono tutti professionisti iscritti agli ordini, e c'è un'altra contestazione appunto che questa categoria fa già rispetto anche alla prima fase dell'emergenza, quando anche a tutte appunto le categorie professionali che sono rappresentate da ordini professionali erano stati esclusi, in gran parte di questi appunto, al beneficio dei 600 euro per tutta una serie di requisiti che erano stati indicati dai primi provvedimenti appunto di sostegno a queste categorie, in particolar modo dal Cura Italia. E già l'ADEP, l'associazione delle casse di previdenza di questi professionisti, l'ADEP è l'organizzazione che le raduna tutte, si era lamentata, aveva mostrato appunto delle contestazioni al governo, poi c'erano stati dei correttivi, e adesso però c'è ancora un'altra problematica per questa categoria, perché a quanto pare sono esclusi dal cosiddetto contributo a fondo perduto che è stato approvato dal decreto rilancio 2020. Non vi voglio però raccontare oltre, perché per la verità tutto questo avrebbe dovuto esserci introdotto dal nostro sportello Dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Ciao a tutti, volevo un'informazione. Ho appena letto il nuovo decreto e volevo chiedere se ho capito bene. Ma è vero che per tutti quelli che hanno usufruito del bonus dei 600 euro non potranno poi richiedere il ristoro a fondo perduto? Grazie. Purtroppo è vero, e io non, come dire, ho la competenza necessaria per commentare questa scelta. Vi posso solo banalmente indicare quello che contempla l'articolo 25,1 e 2 del decreto rilancio. Sono due commi che definiscono proprio nel dettaglio i contorni del contributo a fondo perduto, che ha l'obiettivo di sostenere i soggetti colpiti dal lockdown per l'emergenza Covid. Allora, intanto viene demandato il compito sia della concessione del contributo che dell'eventuale attività di recupero all'Agenzia delle Entrate, quindi dobbiamo anche per questo campo attendere un provvedimento con delle istruzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate per capire nel dettaglio come si potrà presentare la richiesta per fruire di questo fondo perduto, di questo contributo a fondo perduto. Ma quello che sicuramente sappiamo è che la platea di soggetti beneficiari è costituita da soggetti esercenti attività d'impresa, soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, soggetti esercenti attività di reddito agrario, titolari di partita IVA, enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, religiosi civilmente costituiti. Il contributo a fondo perduto, la norma è molto chiara, non spetta, fra gli altri, anche ai contribuenti che hanno diritto alla percezione dell'indennità prevista per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall'articolo 27 delle Cura Italia, per cui ha ragione l'ascoltatore, purtroppo c'è questa esclusione. Non so se potrà arrivare un'altra norma che correggerà quanto previsto dal decreto rilancio, ma al momento le cose stanno così. E allora, a proposito di chi viene escluso dal contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge rilancio, c'è proprio anche tutto il mondo dei per esempio consulenti del lavoro, dei professionisti. C'è tutta una gamma di liberi professionisti, e proprio per contestare questo approccio oggi, pensate che i consigli nazionali dei consulenti del lavoro e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno fatto sapere che incrociano le braccia, nel senso che diserteranno, non che vanno in sciopero, ma diserteranno una riunione che era stata convocata proprio presso l'Agenzia delle Entrate su questo tema per chiarire un po' i termini della questione. Ma evidentemente questa esclusione, di cui scrive anche largamente questa mattina la collega del Sole 24 Ore Federica Micardi, a pagina 25 per essere proprio precisi sui dettagli, e appunto ha scatenato le ire di tutte queste categorie, di tutti i rappresentanti delle professioni ordinistiche italiane, che oggi hanno detto appunto non andremo neanche a discuterne all'Agenzia delle Entrate, per noi non c'è niente da discutere, c'è solamente da ripristinare correttamente questa situazione. Ottimo, direi che ho già chiacchierato a lungo, siccome il tema che abbiamo scelto questa mattina vi piace moltissimo, direi di andare subito a spiegarlo con i nostri ospiti di oggi. C'è davvero da dire che se dovessimo fare la lista, la graduatoria, una classifica dei temi che più vi hanno appassionato rispetto a tutti quelli che sono stati proposti dai provvedimenti, una sequenza interminabile appunto dai provvedimenti varati dal governo per fronteggiare la crisi economica da moltissimi punti di vista, ecco, questa storia del bonus 110% per nuovi interventi di riqualificazione della casa in cui abitiamo, dell'immobile, dell'edificio, del condominio in cui abitiamo, è sicuramente uno dei vostri preferiti. Lo sa sicuramente anche Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore, che salutiamo. Cristiano, bentornato. Grazie Deborah, buongiorno a te e agli ascoltatori. La nostra mail è stata letteralmente tempestata di richieste e di chiarimenti dal primo momento. Non appena hanno sentito pronunciare il concetto bonus 110% per la casa, senza neanche sapere dove lo Stato aveva intenzione di andare a parare, Cristiano, già le domande fioccavano ai nostri indirizzi di posta. Immaginiamo che questo sia capitato anche a voi al Sole. Sì, assolutamente, uno dei temi, forse il tema di maggiore interesse, almeno rispetto alle famiglie, al contribuente medio, non alle imprese, contenuto in questo decreto rilancio, certamente. Allora, sentiamo anche, come dire, un po' un piccolo intervento di preambolo del nostro altro ospite che salutiamo, un altro graditissimo ritorno, quello di Marco Zandonà, direttore dell'area fiscale dell'ANCI, Associazione Nazionale Costruttori Edili. Anche per voi si apre adesso una fase di erogazione di una grande attività di consulenza. Zandonà, bentornato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, effettivamente è un provvedimento che ci attendevamo, abbiamo lavorato molto anche per ottenerlo. Diciamo che effettivamente anche le stime del costo per lo Stato, ma anche degli investimenti che possono essere attivati, sono stati stimati circa 6 miliardi di investimenti, e pensate che nel settore edilizio e tutti i settori connessi dell'indotto abbiamo un effetto moltiplicatore di almeno 3 volte, quindi pensate che noi abbiamo stimato circa 21 miliardi di nuovi investimenti e di lavori. Certo, è un limite il lasso temporale, perché da qui al 31 dicembre 2021 comunque è un ottimo provvedimento da valutare positivamente. Eh sì, anche perché immaginiamo, adesso ne daremo i dettagli e spieghiamo perché Zandonà ha fatto questa precisazione, diciamo che teoricamente il provvedimento dà la facoltà agli interessati di poter partire con i lavori dal 1 luglio di quest'anno, ma siccome si tratta di interventi corposi per i quali c'è bisogno di mettere in campo sia delle risorse economiche e personali importanti e poi anche magari tutto il meccanismo delle autorizzazioni a partire da quelle necessarie se si ipotizza un lavoro condominiale, appunto delle assemblee di condominio, è chiaro che non tanto potrà partire dal 1 luglio, ma chissà, siamo pronti appunto ad essere sorpresi. Allora andiamo un po' con l'ABC di questa novità. Allora, il riferimento intanto, Cristiano, è l'articolo 119 del decreto rilancio, subito per gli appassionati dei termini di legge come il nostro Mauro Meazza, che lo avrà studiato a memoria, però anche a te sarà capitato lo stesso. Allora andiamo un po' ad indicare questi incentivi per l'efficienza energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Abbiamo anche questo passaggio nella norma. Allora, che cosa si potrà teoricamente fare dal 1 luglio 2020? Aspetta, non ho fatto un'altra dovuta e importante premessa. Ministero dello Sviluppo Economico permettendo e Agenzia delle Entrate permettendo, perché dobbiamo ancora aspettare qualche istruzione. Sì, esatto. Diciamo che qui siamo di fronte a una norma di legge che è molto articolata, perché c'è l'articolo 119, poi c'è anche la norma successiva che disciplina le possibilità di cessione. Io darei per cominciare alcune coordinate di massima, in modo tale che gettiamo alcuni punti fermi. Poi è ovvio che è una norma che occupa alcune pagine di testo, quindi non riusciamo a dare tutti i dettagli. Diciamo innanzitutto che abbiamo una detrazione che è del 110%, quindi supera l'ammontare delle spese. È una detrazione che viene recuperata in 5 anni, non in 10 come accade invece per tutte quelle che abbiamo imparato a conoscere e che ci sono ancora, ed è una detrazione che in alternativa, se il contribuente non vuole utilizzarla per abbattere la sua IRPEF in dichiarazione dei redditi, può essere o ceduta all'impresa come credito d'imposta o trasformata in credito d'imposta e usata dal contribuente per pagare le sue imposte. Quindi anziché scaricarla dall'IRPEF la uso per esempio per compensare l'IMU, per fare un esempio. O ancora può essere trasformata in sconto in fattura. Quindi abbiamo questo set di possibilità. Però diciamo anche un punto importante, che premia degli interventi che sono degli interventi tendenzialmente significativi, degli interventi certo, di rilievo. Quelli quindi, che fanno, ad esempio, scattare di almeno 2 note il grado di efficienza energetica dell'abitazione, per esempio. Quindi questo è già un parametro molto importante sul quale bisogna che gli ascoltatori abbiano le idee chiare. Esatto, quindi No, è così Deborah. Quindi diciamo che in linea di principio gli interventi eseguiti all'interno dei singoli appartamenti di un condominio, dal rifacimento del bagno al cambio delle finestre allo spostamento della parete, questi sono fuori dal 110%, che invece riguarda grandi coibentazioni, cambio della caldaia e dell'impianto termico con miglioramento dell'efficienza energetica, sisma bonus, tutti gli interventi di messa in sicurezza antisismica. Quindi tutto questo può avere il 110% nei condomini. fuori dai condomini, quando abbiamo delle abitazioni monofamiliari, ci dice la norma, unifamiliari, pensiamo all'abitazione in montagna o al mare di carattere unifamiliare, lì l'intervento viene limitato attualmente, per quella che è ora la legge, alle abitazioni principali. Quindi le case dove non si ha la dimora abituale, le cosiddette seconde case, sono escluse. Questo è l'altro punto che dobbiamo dire subito, ben sottolineando. Con un'avvertenza, sì. Però poi qui mi fermo perché si potrebbero dire molte cose, ma solo con un'avvertenza, attenzione, perché se la casa che si possiede in montagna è una casa che è in comproprietà tra due fratelli e ha magari due unità immobiliari, pian terreno e primo piano, quella tecnicamente è già un condominio, quindi lì non si pone più il problema prima seconda casa, lì i lavori si possono fare eventualmente col 110% se si ricade in, diciamo, quella categoria. Diciamo che qualche, non dico escamotage, ma qualche lascia passare per poter fare comunque sì, il lavoro, certo, si può trovare, certo, se ci sono queste situazioni un po' ibride di proprietà e comproprietà. Ecco, un'ultimissima sì, cosa poi, se posso. Uh-huh. Certo. Ultimissima cosa, importante, questo è passato poco, pochi se ne sono accorti, non c'è solo il bonus 110% in questo decreto rilancio, c'è anche la possibilità di avere la cessione del credito, lo sconto in fattura o la trasformazione in credito d'imposta anche per tutta un'altra serie di agevolazioni edilizie che c'erano, che rimangono, che non cambiano e che diventano cedibili. Quindi facevo prima l'esempio di quello che rifà il bagno in casa, allora in quel caso quel lavoro non ha il 110, ha il 50%, ma è un 50% che, fatte, come dire, tutti i debiti rodaggi della norma che dovrà prendere piede, potrà essere anche ceduto a una banca o ceduto all'impresa sotto forma di credito d'imposta. Ecco, quali potrebbero essere, Zandonà, chiedo a lei un ulteriore commento, poi andiamo alla borsa e poi abbiamo tutta la mezz'ora successiva per argomentare meglio punto per punto tutte le indicazioni che abbiamo dato fino a questo momento. Quali potrebbero essere un po' le aree un pochino più critiche di questo provvedimento? Perché sento già parlare di possibilità che le banche non siano molto contente di assumersi questa cessione di credito d'imposta, cioè a parte che abbiamo altre possibilità, ma nel caso in cui al settore bancario si chieda questo sforzo ulteriore dopo tutti quelli che oggettivamente va riconosciuto hanno dovuto mettere in campo nelle ultime settimane, quella parte lì lei la vede semplice da poter attuare o no? Diciamo che è una novità, comunque in ogni caso le banche si dovranno attrezzare, però sottolineo che l'attività di acquisto dei crediti d'imposta, soprattutto di IVA, è un'attività che le banche e tutti gli intermediari finanziari fanno da molto tempo. Quindi comprare i crediti da Eco e Sisma Bonus è sicuramente una cosa nuova, ma le banche possono arrivarci e si possono attrezzare. Noi come ANCI siamo in contatti proprio con l'ABI per fare delle convenzioni o comunque per velocizzare l'applicazione di questa disposizione. Quindi certo, io non vedo un grande problema, anche perché la novità è che la cessione a banche intermediari crea debito pubblico e l'Unione Europea ci ha autorizzato in deroga al patto di stabilità. E questi titoli di credito sono come titoli di Stato, quindi crediti certi, liquidi ed esigibili, che verranno acquistati dalla banca sicuramente tra il 10% anche meno, cioè bisogna garantire alle imprese, ai fornitori il 100% e la banca lo acquista, cioè chiaramente ti dà 100 e acquista 110. Quindi siccome si recupera in 5 anni c'è una percentuale di guadagno del 2% l'anno, quindi è un interesse comunque competitivo e soprattutto c'è la garanzia dello Stato perché questi sono crediti fiscali, come ho già detto, liquidi, certi ed esigibili, quindi non è poco. Esatto, tra l'altro molto interessante anche l'aspetto del recupero in 5 anni. Un'ultima precisazione, poi vado in borsa e poi torniamo su questi temi. Prima indicavo nella necessità di un intervento del Ministero dello Sviluppo Economico relativamente anche alla diffusione di istruzioni operative per tutta questa operazione. Per la verità, se non ho capito male, magari Cristiano, 30 secondi aiutami tu, è stato esonerato il Ministero dello Sviluppo Economico dalla pubblicazione di linee guida su come effettuare queste operazioni, con l'eccezione dell'intervento di asseverazione tecnica dell'Enea su una certa tipologia di lavori. Per il resto qui è stato molto semplificato, no, questo passaggio. Quello che aspettiamo ora per la partenza del tutto sono proprio le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. Sì, allora abbiamo sicuramente un tema di istruzioni dell'Agenzia delle Entrate e purtroppo questo è l'iter delle leggi in Italia, non sottovalutiamo la conversione in legge. Conversione in legge. Il decreto esatto. È in vigore dal 19. Già ieri c'erano le prime dichiarazioni di esponenti politici che dicevano cerchiamo di eliminare il limite sulle seconde case e di introdurre quindi l'agevolazione libera. Certo. Perciò chi ha una seconda casa quantomeno aspettare di capire se viene liberata quella possibilità di intervento. Era già peraltro proprio un tema tra i più gettonati di quelli arrivati alle nostre mail. Ci fermiamo, c'è la borsa, intanto continuate a prenotare se volete i vostri interventi all'800 24 0024, vi ascoltiamo volentieri tra pochissimo. Tutti questi esperti qua, ma per quale finanze? Le vostre, quelle dei ricconi. Ciao, Vincenzo da Palermo, I love my radio. Ciao, sono Riccardo da Genova, I love my radio. Ciao, sono Corrado da Roma, I love my radio. Gli italiani amano la radio. Il 71% la ascolta anche da casa. L'ascolto da supporti digitali è aumentato del 24% e per il 59% degli italiani la radio è relax e allegria. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari. Buongiorno signora Rosciani, volevo fare una domanda, il bonus edilizio è previsto solo per l'abitazione o può essere anche utilizzato diciamo per rifare il tetto di una stalla? Grazie. Buongiorno, sto ascoltando il vostro programma, come fate a dare le indicazioni che apparentemente sembrano precise quando il decreto non è ancora stato approvato? Non solo, ma i regolamenti e i decreti attuativi non esistono, ancora non si capisce bene come e quando dovremmo cedere il credito, se le banche effettivamente per esempio accetteranno l'acquisizione di questo credito e in che termini e tempi poi le aziende lo possono veramente utilizzare. Non mi sembra il caso di trattare e dare quasi delle certezze come state comunicando voi, quando in effetti queste non ci sono. Giuseppe da Cagliari. Volevo chiedere una cosa, ma per montare un fotovoltaico e avere questo ristoro del 110% bisogna aprire una pratica, una scia, qualcosa o basta solo acquistarlo da un qualsiasi impiantista? Grazie. Allora, mi corre subito l'obbligo di rispondere a Giuseppe da Cagliari, con il quale noi siamo perfettamente d'accordo e le posso dire, Giuseppe, che noi siamo stati molto in conflitto se fare o no questa trasmissione questa mattina e da settimane, diciamo con Mauro Meazza, evitate di scriverci con la richiesta di chiarimenti su questa parte del decreto rilancio, su questa parte appunto così importante della norma, perché al momento non abbiamo nulla, mancano delle istruzioni molto dettagliate e soprattutto, come diceva Cristiano Dell'Oste, manca la conversione in legge del provvedimento e sicuramente molti deputati, molti parlamentari saranno ovviamente sensibilizzati a dare l'assalto alla diligenza e a metterci lo zampino e a proporre e magari ottenere anche qualche modifica. Una ne indicavamo poco fa, la possibilità di estendere il provvedimento alle seconde case. Detto questo, Giuseppe, pur con tutte le ragioni che lei ha, siccome ci hanno scritto in centinaia, abbiamo ritenuto, con tutte le dovute premesse e precisazioni che abbiamo fatto con Cristiano e con Marco Zandonà, di fare ugualmente la trasmissione, perché magari non abbiamo ancora dettagli precisi, ma abbiamo una larga parte della norma che già ci dà un'idea su quelli che potenzialmente sono i lavori che potranno essere fatti. Quindi vediamo se stamattina invogliamo qualcuno ad andare avanti nella loro iniziativa o li scoraggiamo definitivamente. Zandonà, che ne dici? Ho fatto bene a dire tutte queste cose? Comunque una prima sventagliata di informazioni siamo in grado di darne? Beh, sicuramente sì, perché la norma comunque ha degli elementi base molto chiari e in secondo luogo ricordiamoci che i meccanismi di sconto e di cessione del credito erano già stati legiferati, quindi c'erano già le istruzioni, quindi le istruzioni istruzioni che l'Agenzia delle Entrate dovrà fornire entro 30 giorni, quindi entro la fine di giugno, e sicuramente ricalcheranno quelle che erano state già date per lo sconto sul corrispettivo che, ricordo, era in vigore dallo scorso 1° maggio, poi è stato limitato ma comunque era già in vigore. Quindi sicuramente l'Agenzia delle Entrate riprenderà quelle istruzioni, lo stesso modello, la comunicazione in via telematica, e quindi si tratta di un dettaglio. In ogni caso, siccome per partire due elementi importanti sono: prima, io devo fare il progetto e quindi partire da quello, e non credo che entro 30 giorni sarà tutto pronto. Il secondo invece aspetto è proprio siccome le norme si entreranno, sono in vigore, ma si applicano in base alle spese sostenute dal 1° luglio, gli interventi in corso che hanno tutti i requisiti di legge già fuoriranno di questo 110%. Ecco, questo è molto importante, per cui non dobbiamo immaginare di partire con qualcosa di radicalmente nuovo dal 1° luglio, quindi c'è una gamma di interventi in corso che potranno convertire il beneficio fiscale in questo migliorativo, che questo è molto importante, questo passaggio. Ecco. Tutto qui, quindi ci saranno delle modifiche in sede di conversione in legge, però attualmente ci sono degli elementi certi, la norma non potrà essere completamente stravolta. Quindi io devo iniziare a progettare il progetto. Se ho un lavoro in corso e ho tutti i requisiti, sicuramente ci posso rientrare. Certo. Aggiungo anche Cristiano dell'Oste, ovviamente, proprio per cominciare a prepararci, sicuramente c'è tutta la gamma dei preventivi da chiedere, no? Perché magari già noi immaginiamo da tempo un lavoro importante. Andiamo all'ascoltatore che vuole rifare il tetto della sua stalla, che intanto voglio capire se secondo te potrebbe essere destinatario di questo super incentivo fiscale. Certamente poi ho anche bisogno di professionisti che mi diano un'idea di massima di spesa, quindi già magari con quello ci si può portare avanti e non è un'incombenza particolarmente rilevante ed estenuante dal punto di vista economico. Cristiano? Sì, è così. Allora, diciamo che intanto il decreto è legge dello Stato, come diceva Marco Zandonà, il decreto è in vigore e quindi c'è una prima base di partenza. Poi l'altro elemento importante è che questa è esattamente la fase in cui si deve iniziare a capire che cosa si può fare, iniziare a studiare la cosa. Abbiamo sentito prima la domanda di un ascoltatore sul fotovoltaico, che sembrava un po' spaesato. È chiaro che tutti questi lavori chiedeva sulle autorizzazioni preventive alla partenza dei lavori. È chiaro che qualunque lavoro deve rispettare quello che tecnicamente si chiama il titolo abilitativo. Alcuni interventi si fanno in edilizia libera, altri richiedono dei titoli abilitativi. Tendenzialmente i lavori da 110% sono tutti lavori che richiedono un titolo abilitativo, interventi di un qualche peso, e io non consiglierei a nessuno che voglia puntare al 110% di muoversi senza l'assistenza di un professionista qualificato. Questa è la prima cosa che possiamo dire. Mentre per altri interventi da detrazione del 50%, il cambio della porta blindata, l'installazione del condizionatore, il bonus mobili, eccetera eccetera, lì ci si poteva e ci si può muovere facilmente con il fai da te, qua entriamo in una scala di complessità, però proprio quella scala di complessità indica che adesso è il momento di studiare, di ragionare, di parlarne anche in condominio con l'amministratore per iniziare a capire cosa si può fare. Aggiungo una cosa ancora che è importante: tutte le spese professionali collegate sono detraibili. Quindi il geometra, l'architetto, L'architetto, il termotecnico che mi documenta il miglioramento della pagella energetica dell'edificio, sono tutte spese detraibili che entrano nel computo di quel totale di spesa su cui si va ad applicare il 110%. Quindi da questo punto di vista, questo è un principio assodato, non è una cosa nuova. E l'altro aspetto importante su cui bisogna fare una valutazione in questo momento è che, come diceva giustamente Zandonà, siccome c'erano già lavori avviati, e aggiungo moltissimi lavori avviati o preventivati o deliberati si sono fermati in questi 2 mesi di lockdown e adesso stanno ripartendo, facciamo intanto una valutazione per capire se quei lavori erano stati impostati ad esempio per ottenere il bonus facciate, si può continuare con il bonus facciate perché va bene così, perché magari è la scelta più conveniente, oppure è opportuno invece spostarsi e aspettare di intercettare la detrazione al 110%. Certo. Quindi quello è un tema. Prego, prego. Sì, no, volevo rispondere all'ascoltatore sul tetto della stalla per capire, Zandonà, in un minuto poi abbiamo la nuova pausa del traffico, tutti questi interventi così agevolati sono interventi che dovranno essere fatti solo sull'edilizia residenziale privata o anche su edifici che hanno un'altra appartenenza di categoria? Bisogna vedere, nei condomini ci possono, ecco, mi sentite? Nei condomini ci possono essere effettuati anche su edifici ad accatastamenti diversi da quello di abitativo. Per quanto riguarda ovviamente invece quello che non è abitativo, ovviamente c'è il limite dell'abitazione principale per le abitazioni unifamiliari. La stalla sicuramente, se io faccio un intervento, non è né un condominio né un edificio residenziale, avrò diritto al vecchio ecobonus. Certo. Vecchio ecobonus, ovviamente, se raggiungo dei valori di trasmittanza termica nella coibentazione, il vantaggio è che prima dovevo pagare e poi recuperare in 10 anni o fare la cessione del credito, in questi casi avrei anche lo sconto in fattura, quindi che sarà la procedura più veloce che poi quella maggiormente certo. utilizzata, e questo vale anche quindi per la stalla, però con una aliquota ridotta, non del 110 magari, ma avrò in questi casi il 65%. Eh certo, però abbiamo comunque un criterio migliorativo rispetto al preesistente. Ci fermiamo, il traffico a tra poco e poi vado con la carrellata di domande che ci avete inviato negli ultimi giorni. Due di denari. Io per esempio non posso mettere il fotovoltaico perché ho una casa a 100 metri dalla direttissima e sembra che se metto i pannelli solari sul tetto disturbano i passeggeri della direttissima stessa. Ma stiamo scherzando? Questa è la sovrintendenza. Allora, tutti questi vincoli che li tolga il governo, ci dovrebbero stendere un tappeto rosso invece di tutte queste restrizioni. Grazie. Eccoci qua, allora sì, stavo ascoltando con interesse questo ascoltatore, purtroppo su questi limiti non possiamo intervenire, andiamo un po' a sentire invece quelli che possiamo aiutare, questo è un campo d'azione nel quale non ne possiamo sollecitare lo Stato. Lucia da Varese, buongiorno, rapidissima così diamo spazio buongiorno, anche a tanti suoi colleghi. Volevo sapere, magari l'avete già detto, non ho sentito, se cioè, posso fare, oddio, il cappotto, però non la tinteggiatura. La tinteggiatura rientra nella vecchia legge che io posso detrarre il 90% in 10 anni, oppure può essere anche questa ceduta nel 110? Grazie Lucia. Faccio una cosa, prendo tutte le domande che stanno arrivando e così poi le giro immediatamente ai nostri ospiti che stanno prendendo appunti. Gregorio da Latina, credo, sì? Sì, buongiorno. Buongiorno, bene. Ci dica. Allora, sì? Aspetta, io volevo sapere se anche per gli impianti di riscaldamento autonomo vale il decreto e più in generale se vale anche per i lavori fatti nel singolo appartamento. Grazie. Grazie Gregorio. Riccardo da Verona Venezia, che non riesco a leggere Venezia. Da qua. Venezia, pronto? Eccoci qua. Ci dica. Sì. Volevo chiedere se la sostituzione della caldaia con una caldaia in classe A a condensazione senza nessun altro tipo di lavoro è detraibile al 110%. Grazie Riccardo. Allora, Zandonà, comincio con lei, andiamo un po' ad esplorare il tema del rinnovo dell'impianto di riscaldamento nella propria abitazione. Andiamo verso l'estate, i nostri ascoltatori si portano avanti naturalmente per il prossimo inverno. Allora, ecco, da questo punto di vista, che incentivo dobbiamo immaginare vale quello appena varato? Allora, direi di no, nel senso che il 110% per gli impianti di riscaldamento sono quando sono impianti di riscaldamento centralizzati, ovvero chiaramente anche quelli sulle singole unità immobiliari, però ovviamente abitazioni principali cielo terra, però ovviamente con le pompe di calore. Viceversa, se io sostituisco nella mia singola unità immobiliare la caldaia ovviamente con una condensazione, posso avere ovviamente o il beneficio della detrazione delle ristrutturazioni edilizie col 50%, che chiaramente è scontabile, quindi fruisce anche dello sconto della novità, dello sconto in fattura o della cessione del credito che prima non era possibile, ovvero del vecchio ecobonus, che comunque la detrazione sarebbe per le singole unità immobiliari sempre al 50%, però ci sono maggiori adempimenti, quindi io consiglierei in questi casi la derogazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie con sconto e cessione del credito, infatti, recupero in dichiarazione. Sarà anche interessante verificare che cosa succederà su questa storia dello sconto in fattura, magari immaginiamo per il prossimo futuro una puntata su questo per capire nel dettaglio che cosa ci dobbiamo aspettare dal professionista al quale chiediamo l'installazione di un impianto nuovo cristiano, perché anche questo credo che sarà un punto un po' delicato, perché già immaginano in molti, non vorrei che magari in fattura viene indicato un prezzo molto più alto rispetto a quello che poi nella concretezza il professionista praticherà all'utente che chiede il lavoro. Beh, questa sarebbe e poi rispondimi anche sulla tinteggiatura della signora di Varese. No, allora questa sarebbe una frode. Diciamo che noi avevamo già visto alla fine dell'anno scorso, prima che, come ricordava Zandonà, venisse un po' depotenziata la norma, avevamo già visto un mercato che cominciava ad attivarsi, cioè si vedevano in giro le pubblicità delle imprese che offrivano ad esempio il cambio dei serramenti, degli infissi per l'abitazione con sconto in fattura, quindi prezzo 1000 ma detrazione del 50%, quindi tu mi paghi solo 50 perché ti sconto già la fattura. Sì. Allora, la legge dice che lo sconto in fattura deve essere di ammontare pari alla detrazione, quindi fatto 1000 il prezzo, se la detrazione è 50%, lo sconto in fattura deve essere di 50. Questo ad esempio nel caso degli infissi. Poi il rischio potrebbe essere quello che in alcuni casi il prezzo venga un po' alzato, ma parliamo di un prezzo vero, non di un prezzo fittizio indicato, cioè che le finestre con lo sconto magari vengano a costare un po' di più proprio perché l'azienda deve farsi carico dello sconto. Questo però rientra nelle dinamiche di mercato, bisogna poi confrontare i prezzi e vedere come ci si muoverà. Invece quando si va a cedere il credito d'imposta può essere ceduto anche a un valore nominale reale inferiore a quello nominale, quindi credito di 500 sì, però l'azienda me lo può comprare o la banca me lo può comprare a 450 per esempio, questo per fare solo un caso. Invece per dire velocemente delle due altre domande che erano rimaste in coda, allora interventi all'interno dei singoli appartamenti, se sono appartamenti in un condominio, l'abbiamo già detto prima ma lo ripetiamo, sono esclusi dal 110%, invece se sono interventi in diciamo unità immobiliari abitative singole, quindi la casa monofamiliare, quelli beneficiano del 110 a patto che sia abitazione principale. Poi l'altra cosa invece, sì. Esatto, l'altra cosa che chiedeva l'ascoltatrice, allora se si fa il cappotto termico è chiaro che all'interno della detrazione per il cappotto termico vengono assorbiti anche gli altri lavori. È ovvio che io non posso fare una coibentazione e poi lasciare i materiali isolanti senza, come dire, coprirli, quindi questo rientra tutto nella detrazione. Se il tipo di lavoro che io faccio può avere il 110%, è assorbito nel 110% anche l'intervento collegato della tinteggiatura. Se il lavoro che io faccio è un cappotto termico, diciamo, normale da ecobonus, perché ad esempio sto intervenendo su una seconda casa, quindi non posso avere quell'agevolazione lì, avrò il 65%. Resta poi fermo che a certe condizioni, ad esempio la facciata esterna in zona urbanistica A o B, che vuol dire nei centri storici, c'era e rimane il bonus facciate che premia anche la sola tinteggiatura. In alternativa la sola tinteggiatura può avere anche la detrazione del 50% se è fatta in condominio, sulle parti comuni condominiali. Ultimissima precisazione che voglio fare, Deborah, parliamo di seconde case, ma escludiamo sempre da questa, diciamo, seconde case escluse, ma se sono fuori dai condomini. All'interno di un condominio, su questo chiedo anche conforto a Zandonà, ma io sarei abbastanza sicuro, all'interno di un condominio ci sono ad esempio appartamenti dati in affitto, appartamenti vuoti, negozi, uffici. Se i lavori che facciamo sono da 110%, quindi da super bonus, lì tutti prendono la detrazione. Non è che certo, chi ha l'appartamento stabiliti, diciamo, seconda casa su base assembleare, chiaro. Esatto, sì, chiediamo a Zandonà, questo è importante. Cioè, quello che abbiamo sicuramente capito, Zandonà, è che ognuno ha la sua microscopica situazione, quindi noi possiamo sicuramente avventurarci, questa mattina l'abbiamo fatto, nel dare tutte le istruzioni generali e il contenuto generale del provvedimento, dopodiché ognuno deve proprio vedere il suo microcosmo e la situazione nella quale si trova, perché abbiamo capito che c'è la pletora di eccezioni. Zandonà. L'intervento è condominiale, quindi vuol dire interessa le parti comuni condominiali, il cappotto o impianto di riscaldamento, si prescinde dal fatto che le singole abitazioni siano prima o seconde case, ma addirittura nell'ipotesi in cui all'interno di un condominio ci siano uffici, negozi, anche posseduti da soggetti IRES, quindi non da persone fisiche, in ogni caso per gli interventi sulle parti comuni l'agevolazione compete a tutti, quindi sia soggetti IRPES che soggetti IRES, sia abitazioni, uffici e negozi. Ovviamente devono trattarsi di interventi sulle parti comuni, non all'interno delle singole unità. Assolutamente. L'ultima osservazione, Nicola da Latina, che sarà telegrafico, però era in attesa e lo sentiamo volentieri. Nicola, buongiorno, veloce, grazie. Velocissimo, parzialmente. Un simpatico amministratore di condominio, sì. Speriamo che sia simpatico. Soltanto un'altra precisazione per quanto già chiaramente detto. Quando sentiamo dire, innanzitutto, gli amministratori di condominio sono la parte trainante di questa cosa, perché senza gli amministratori di condominio. Quando sentiamo dire spesso dai media che questo importo di appalto per la riqualificazione energetica può essere scontato, chiamiamolo così, dall'impresa, dobbiamo tenere ben presente, dobbiamo specificarlo bene, che oltre agli importi puri dell'appalto rientrano anche quelli, come è stato già detto, tutta una serie spese progettuali, di progettazione, ed è difficile, quasi impossibile, che quando noi vogliamo fare la cessione del credito con l'impresa, e non sempre l'impresa poi prende anche quegli importi, perché se l'appalto è dato per 100, dopo su quei 100 di puro appalto c'è anche un altro 20-25%. Grazie Nicola, prendiamo volentieri il suo spunto e magari ne prendiamo atto per un'altra puntata di approfondimento. Sicuramente tanti correttivi dovranno essere fatti, verranno fatti. Dopodiché, magari anche con la collaborazione dell'ANCE, Zandonà, lancio qua questa idea, dal 1 luglio in avanti potremo fare proprio un bel percorso su questa norma così importante, nei confronti della quale, lo faremo anche con Cristiano Dell'Oste, molti ascoltatori appunto hanno delle grandissime aspettative. Intanto grazie per essere stato con noi, buona giornata, presto. Non ci sente più Marco Zandonà, lo abbiamo salutato dalla regia, ringrazio anche Cristiano Dell'Oste.